later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'opera di ampliamento non conosce pause, K e Drago a piedi cercano di raggiungere le squadre di operai. Dai Drago, su, se continuiamo di questo passo raggiungeremo gli operai tra 15 giorni. Ah, 15 giorni a questo passo? Sì. Tu vuoi vedermi morto, cioè. Dai, sembra che i lavori siano in ritardo per uno sciopero, quindi possiamo approfittarne. Ma come uno sciopero? Sì. Uno sciopero tra le fila dei fedelissimi operai dell'ampliamento. Sì, sbrigati, dai, la coscienza sociale ha fatto capolino anche in mezzo a loro, dai. A parte che oggi perfino Gaston è un sciopero. Come Gaston, la guardia del corpo dell'amministratore delegato? Sì, sì, lui. Oggi ha incrociato le braccia e ha detto... Va, je ne veux pas travailler, moi. Va, je fais la grève, moi. Va, où est la tarata? Va. Insomma, compagni e compagni, non è possibile accettare sempre le decisioni dei padroni come se fossero sentenze divine. Siamo qui per lavorare, d'accordo? Ma per lavorare bene, non per lavorare malamente. Siamo nel ventunesimo secolo, il secolo in cui gli animali si solleveranno e prenderanno il controllo della situazione. La nostra unica forza, adesso come adesso, è quella di incrociare le zampe. E so che anche i nostri compagni dell'ampliamento, che ormai lavorano ininterrottamente da anni e sono arrivati ai limiti estremi della fabbrica, stanno seguendo il nostro esempio e si sono rifiutati di riprendere i lavori. Un grande applauso, un grande urrà per i compagni operai dell'ampliamento! Noi cerchiamo il costruttore di questa torre di Babele. Le grandi opere di ampliamento sono iniziate anni e anni fa. All'inizio, narrano i testimoni, sembravano lavori di ordinaria amministrazione, però lentamente ci si rese conto che la prima linea stava avanzando su quattro lati e che non sembrava avere intenzione di fermarsi. Come coloni di un mondo inesplorato, gli operai hanno portato con sé le famiglie che si spostavano a seconda dell'andamento dei lavori. Generazioni di operai si sono susseguite negli anni, portando avanti l'impresa della conquista di un nuovo spazio vitale per la fabbrica. Le nozioni di primo di classe. Spazio vitale o Lebensraum è concetto preso paro paro da dottrina geopolitica tedesca di secolo numero 19. Medesimo concetto fu fatto proprio da Hitler, che lo impiegò per legittimare la politica espansionistica che avrebbe consentito alla Germania di conseguire ampliamento di spazio vitale fino a un dominio tedesco su tutto il continente europeo. Jawohl! Aber io sono svizzero, dunque tutta questa eccitazione è fuori luogo, e dunque io sono molto neutrale, in quanto svizzero. Io mai ho avuto legami con il nazionalsocialismo, io molto giovane. Se io giovane in anni di nazionalsocialismo, forse io nazionalsocialista. Aber come faccio a sapere e non sapere? Mio pragmatismo elvetico non mi permette di fare supposizioni su come sarebbero andate se io avessi eucronia e lui avesse voi aveste di eucronia. La fabbrica di polli. Scientology tu, eh? Non lo so. Appunto. E sai perché non lo sai? No. Allora, primo perché non capisci niente di tuo. Secondo, perché ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Terzo, perché non stai imparando niente. Ti sembrano tre validi motivi? Sì. E bravo, infatti lo sono. E te l'hanno già prosciugato il conto corrente? Sì, ma te cosa ti trovano sul conto corrente? Un fuorifido della Madonna, eh? Fuorifido? Eh no, è fuorifido no, tarecque. Che poi ti telefona il direttore della banca e ti tira le orecchie di pollo che non hai. Fuorifido? Ma se vai fuorifido, il bancomat non funziona più e fai figuracce dappertutto, eh? Ma lo sai o no? Eh no, che non lo sai tu. Metti che vai dal benzinaio, fai il pieno, strisci la tua bella tessera magnetica e viene fuori la scritta credito insufficiente, eh? Allora il benzinaio ti guarda un po' incazzato e ti fa segno di tirare fuori il portafoglio. Solo che poi tu non hai contanti e quello chiama la polizia. È tutto per colpa di chi? Scientologi. Bravo, e tu ciula che ci sei finito dentro. La fabbrica di polli. Buona notte a tutti, da Mohamed Larkman Vlant, dalla frequenza di Radio Larkman Tanakh. La notte di deserto sta avvolgendo tutto creato. Stanotte resterete con me, ad aspettare l'alba fumando kef, bevendo tè marrone, pieno di pezzetti dentro, che quando lo beve ti viene solletico in gola, tossisci fino di morire. E poi quando io ubriaco, sparo da Kalashnikov contro il soffitto, cadono calci raggi. Mohamed, tu calmo devi stare. E da me raccomando stanno. Tu fare di DJ cool, tu fare cool. No, capito? Ma fare cool lo dice de tua sorella, quella caprona delle montagne. Mezzanotte, un'ora sospesa, che non poggia su nessuna cosa. Mezzanotte, l'ora dell'attesa, ecco perché adesso siamo qui. Cappa! Tu con questa tosse non arrivi mica alla prima linea. Poi, oltretutto io non so nemmeno se esista questo posto. Cosa dici? Cosa dici? Secondo te io faccio uno sforzo simile per una cosa che non esiste? Bah. La prima linea dei grandi lavori di ampliamento esiste. E come? Ed è solo a 15 giorni di cammino da qui. È solo. Quindi se smettessi di lamentarti e continuassi a camminare, forse potrei anche dimostrarti, Drago, che ho ragione. Senti, oh, ma in che stato sei? Ma se invece insisti con questo tuo atteggiamento, che devi fare un po' il disfattista, un po' l'infermierina, senti in che stato sei, non mi resta che lasciarti qui e proseguire da solo. Vuoi stare qui? Lasciami qui, capa. Per me ormai non c'è più niente da fare. Pensa per me. Infatti sei tu che dovresti dire questa battuta, ma la dico io lo stesso. Non vedrò mai le gloriose squadre degli operai dell'ampliamento. Non vedrò mai i limiti estremi di questa galassia sconosciuta in continua espansione. Ma tu che sei sano e forte, vai, continua e pianta un albero appena arrivi a destinazione. Un albero? Sai dove te lo pianterei, un albero? Sarà l'albero della vita che rimpiazzerà questo mio corpo mortale. Incredibile albero della vita che rimpiazzerà il corpo mortale di Drago. Che cosa succederà adesso? La defiance di Drago è soltanto il risultato delle centinaia di film in cui un soldato chiede agli altri di lasciarlo morire? O avrà conseguenze estreme sulle vicende che si svolgono nella fabbrica di polli? E K ha una broncopolmonite? Lo saprete solo aspettando che passi il weekend e risintonizzandovi lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi broncopolmonitici allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.